Oh! Oh, messo in sospetto di qualche occultore, or comprendo era amor di sorella. Tutto è lasciato onde sottrarmi a scarpia scarpia satiro che affina con le devote pratiche la foglia libertina e strumento alla scivo talento fa il confessore il boia la vita mi costa se vi salverò ma indugiar notte mal sicuro temo del sole la cappella mette un orto mal chiuso poi c'è un canneto che va lunge per i campi a una mia villa minuta ecco la chiave innanzi sera mi raggiungo portate con voi le vesti femminili impenetrabile e sicuro sospetti ora te esale tue risposte un prigionier di stato, fuggì pur'ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Ricordo. Forse c'è ancora, dove la cappella di lì attavanti? Eccola! Aperta! Arcangeli! E un'altra chiave! Buon indizio! Entriamo! Grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato e il volo, ma lasciò una preda preziosa, un ventaglio. Qualco piccolo misfatto avanti il suo stemma. Il suo ritratto, chi fa quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi. E lui? Lui è la vada di tosca, un uomo sospetto, a volta di lui. Vuoto, vuoto! Ed ecco che fu! Si ritrovò nella cappella, questo bandiero. Lo conosci? Certo! Il sesto del pittore, quando di me. Sputa quello che sai! Io lo lasciai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore avrà pranzato. Nella cappella non ne aveva la chiave, ne contava a pranzar. Disse di stesso, ond'io l'avrei già messo al pranzo. Libera me, domine. Tutto è chiaro, la provvista del sacrista, d'angelo ti fu la preda. Tosca che non mi veda, per ridurre un cielo, sogno sbaglio, io per il fazzoletto e di un Cavaradossi, chissà dove sia, svanisca, taglialo per sua stregoneria. No, no, no, no, tradirmi mi non può. Non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Grazie, signore! Un nobile esempio il vostro, al cielo pieno di santo zelo, attingete il magistero la fede ravviva. Contamo sta le pie donne sovrare, voi calcate la scena e in chiesa ci venite. questo? Certo a sturba gli amanti ed esse nel fuggir per delle tende. Ma poi sospetto, ma non mi amore.

有线调频98.6兆赫。 声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友大家好，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来请您继续欣赏帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》下半部分录音。 Questo biglietto ella verrà, per amor del suo Mario, per amor del suo Mario, al piacer mio s'arrenderò. Profonda miseria, a più forte sapore la conquista violenta che belli tuo consenso, io ni sospiri e ni lattigi dose alle lunari poco battano e non so trarre accordi di chitarra l'oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o trovar come cor me di sazio e di laggetto volta nuova esca io creò di te se ne fatti e di farsi io vo gustar quanto più posso dell'opera di te sempre giunto entri a buon punto. Galantuomo, come me la caccia? San figlia, suo maiuto. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erba di lenta, tra le tratte perduta. E la ventrò. E ci sarà ben presto. Allora scavalco l'esco e il muro del giardino con i miei cagnotti. E piombo in casa. Quel bravo spoletta. Angelotti! Non si è trovato! A cane, a traditore, ceffo di basilisco, e parti! Gesù! C'era il pittore... Cavare Dossi! E sa dove l'arco sa sonde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal me far da ironia. Che io lo trassi in arresto. Meno male. E lì è là. Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco. Val violenza! Cavalier, vi piaccia accomodarvi? Può sapere... Sedete! Aspetto! E sia... Venuto che un prigione... fuggito da Castel Sant'Angelo ignoro pur si pretende che voi l'abbiate colto in Sant'Andrea provi solici voi di resti Antonia e guidato ad un vostro potere suburbano nego le prove un suddito fedele al fatto chi m'accusa i vostri virvi in mantrugar la villa segno che ben celata sospetti di spia per le vostre ricerche e mi ride e rido ancora e rido ancora questo è il luogo basta! Rispondete! Dove Angelotti? Non lo so! Di madre dei da Tocino! Nego! I resti! Nego! E asilo della villa che ti lasci nascosto! Nego! Nego! Cavaliere, riflettete, saggia moneta, testa ostinatezza vostra, angoscia. voce grande, pronta confessione. Angelotti. Non lo so! Molte volte dove? Non so! Come i tratti di corda. Eccola! Mario, tu qui! Quanto avresti caci o uccidi? Mario Cavaradossi! Indi ai miei cenni. Quell'aria sgomentata. Come qualcun mondo. La storia del ventaglio. Fu sciocca gelosia. L'atto avanti non era dunque alla villa. Demone! sotto sa parlare. Non so nulla. Non vale quella prova. Roberti, ripigliamo! Va, Spoletta! tradito. Maledetto! Anche lente quale nuove, vuol dire che l'aria fitta, come sento mi sconfitta, e sconfitta come dove amare, guarda una nuova parte di tutto, me la so, me la sei fuga. Mirai, qual non ti vede mai.

Baby. amore. E cadi bene. Come la Tosca in teatro. Non ridere. Così